24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Un saluto da Raffaella Calandra. In primo piano le prime defezioni al patto fiscale siglato dall'Unione, poi i dati sulla disoccupazione e Euronet Awards. Partiamo dunque dalle ombre che si allungano sull'intesa fiscale raggiunta a Bruxelles, perché dopo la Gran Bretagna anche la Repubblica Ceca si sfila dal patto che prevede l'introduzione di nuove regole di rigore sui conti e sulla crescita. Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore. Si voleva la modifica del trattato e questo nuovo accordo per la progressiva integrazione delle politiche di bilancio, e c'è stato. E questo è, se si vuole, un risultato positivo, in quanto quando ci si pone un obiettivo e lo si raggiunge, questo per definizione è un risultato positivo. Però quello che io trovo meno positivo è il fatto che questo patto sia stato praticamente imposto dalla Germania al resto d'Europa, e questo è un segnale, secondo me, non troppo europeo, nel senso che si dirà, certo, ma l'accordo è arrivato, però per esempio l'accordo è arrivato a 25 e non a 26. C'è un'atmosfera brutta, c'è un'atmosfera di una Germania sempre più invadente, è riuscita ad imporre questa disciplina fiscale senza dare nulla in cambio. Questa è la prima volta che accade, nel senso che in Europa c'è sempre, diciamo, la logica del compromesso, che è normale. In questo caso invece la Germania ha imposto la disciplina, ma non ha dato nulla in cambio, né in termini di crescita né in termini di solidarietà, che è la cosa più importante, cioè i fondi salva stati e le loro risorse. Anche di questo se ne parlerà, ma l'idea tedesca è sostanzialmente quella di imbrigliare le economie degli stati e le politiche di spesa in modo tale da evitare in futuro esborsi. E le borse reagiscono positivamente all'intesa. I dati macroamericani inferiori all'attesa hanno frenato il rimbalzo delle borse europee, trainate in mattinata dall'intesa sui vincoli di bilancio in Europa. A pesare sui listini hanno contribuito anche i continui timori sul mancato raggiungimento di un accordo sul debito greco tra governo e creditori privati. Milano ha chiuso in rialzo dello 0,48%, sostenuta dall'andamento positivo di alcuni titoli bancari come Unicredit, balzata sul finale di oltre il 6%, e BPM in rialzo del 4,4%. Per contro hanno chiuso in calo Mediobanca meno 3,7% e Generali meno 2,3%. La peggiore sul FTSE MIB è stata Fiat Industrial, che ha perso il 5% circa dopo la pubblicazione dei conti della controllata americana CNH, che ha mostrato un utile in flessione nel quarto trimestre 2011. Positivo il comparto del lusso con Ferragamo più 4%, che ha beneficiato ancora dei risultati positivi pubblicati venerdì. Nel resto del listino il titolo Benetton è stato sospeso in borsa dopo un balzo in mattinata di oltre il 9% nel giorno in cui la controllante Edizione ha comunicato di avere allo studio il lancio di un'offerta pubblica di acquisto. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. A Mario Monti è stato assegnato quest'anno il premio europeo dell'anno, conferito dall'annuario dei politici di Francia e di tutta l'Europa alle personalità che con loro impegno più hanno inciso sul dibattito politico internazionale. Parliamo ora di disoccupazione. Ai minimi da 20 anni in Germania resta invece una piaga italiana. Dopo la denuncia del premier, la conferma nei dati Istat. Continua la crescita del numero dei disoccupati in Italia, che a dicembre ha raggiunto la quota di 2.243.000, un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente, ma dello 0,8% rispetto ad un anno fa. A preoccupare particolarmente poi il dato sulla disoccupazione giovanile, salito al 31% nei ragazzi tra i 15 e i 24 anni, più 3% rispetto all'anno scorso, come spiega il direttore del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, Linda Laura Sabadini. Il tasso di disoccupazione giovanile è un indicatore particolarmente critico, soprattutto se visto tra l'altro in rapporto alla situazione europea. Siamo molto al di sopra della situazione europea, che è al 22,1%, anche lì un tasso superiore alla media del tasso di occupazione generale. I cali dell'occupazione hanno riguardato soprattutto gli uomini e le grandi imprese e mentre l'Italia arretra sul fronte lavoro, l'Europa mantiene i livelli occupazionali e addirittura in Germania si registra il minimo storico con il 6,7%. L'Italia ha un tasso di disoccupazione comunque che è inferiore a quello europeo. Noi siamo all'8,9 contro il 9,9 a livello europeo, però in Europa questo è stabile, in Italia è in crescita. A ciò va aggiunto che l'Italia ha un tasso di inattività molto più elevato, 37,5%, perché nel nostro paese è molto alta la componente dello scoraggiamento, chi non cerca più lavoro. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma la Commissione europea come intende affrontare la lotta alla disoccupazione soprattutto giovanile? Sergio Nava lo ha chiesto a Javier Prats Monet, vice direttore della Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione europea. Effettivamente la disoccupazione giovanile è un problema drammatico in Europa, basta vedere che come media nei paesi europei la disoccupazione giovanile è il doppio della disoccupazione generale, quindi c'è veramente un problema. E il problema aggiunto è che quello che possiamo fare con l'educazione, che è dare un'educazione ai giovani che sia adatta a quello di cui il mercato del lavoro ha bisogno, richiede dei tempi lunghi. Quindi non c'è una risposta che si può dare in due giorni, ma senz'altro cercando di favorire e appoggiare la modernizzazione dei sistemi educativi è il miglior modo di assicurarci che nel futuro ci sarà più ravvicinamento fra la formazione che ricevono i giovani e quello di cui ha bisogno l'economia e il mercato del lavoro. Il colloquio rivolto ai modelli europei giovedì riprende in Italia la trattativa tra governo e parti sociali. Siamo al naufragio della Concordia. 18 giorni dopo è stata decisa l'interruzione delle ricerche dei dispersi nella parte sommersa della nave. Mancano le condizioni operative di sicurezza, spiegano i vigili del fuoco. L'interruzione delle ricerche è stata già comunicata ai familiari dei 15 che ancora mancano all'appello, tra cui diversi stranieri informati attraverso le ambasciate. E in chiusura parliamo degli Euronet Award, il primo concorso riservato agli aspiranti giornalisti europei, bandito dal circuito di radio Euronet, di cui anche Radio 24 fa parte. È il giovane rumeno Andrei Purcarea il vincitore di questa prima edizione con un reportage sulla disabilità. Nella cinquina di finalisti la parte del leone però l'ha fatta l'Italia con due candidate, Elena Roda e Jessica Derzulli. Sergio Nava le ha incontrate a Bruxelles, dove la consegna dei premi si è svolta alla presenza del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Siamo qui al Parlamento europeo con le due finaliste degli Euronet Awards, sono Jessica Verzulli ed Elena Roda. Iniziamo con Jessica. Jessica, tu hai presentato un reportage su cosa? Sulle coppie di fatto e sulla difficoltà che queste hanno in Europa a poter regolarizzare il loro rapporto in maniera giuridica. E come si è svolto questo reportage? Ho intervistato 6 europarlamentari cercando di capire cosa si prospetta legislativamente in Europa per questo fatto, per questo tema. E com'è nata l'idea di partecipare agli Euronet Awards? Beh, io ho sentito lo spot che veniva messo in onda da Radio 24, nasce da proprio una passione per il giornalismo, quindi. Quali conclusioni poi hai tirato alla fine di questa cronaca? C'è tanta discordanza tra gli europarlamentari, soprattutto italiani, per quanto riguarda il programmare un istituto giuridico che preveda le coppie di fatto. È una discordanza veramente forte, una spaccatura profonda, però sono sicura che da quello che ho potuto comprendere, da quello che si è vinto insomma dalle ricerche che ho potuto fare, che effettivamente l'Europa sta premendo in tal senso, cioè per legiferare, per prevedere un istituto per le coppie di fatto, quindi sicuramente tutti i paesi dovranno conformarsi a tale direttiva. Quindi ci stiamo allineando all'Europa, lentamente ma ci arriviamo. Sì, sì, ci arriveremo sicuramente nei prossimi anni. Da Jessica, Elena e Elena Roda, invece tu quale lavoro hai preparato per gli Euronet Awards? Io ho preparato un lavoro sulle donne e sui loro diritti nell'ambito lavorativo. Le donne hanno ovviamente molte difficoltà ancora nei diversi paesi europei. Hanno difficoltà perché quando vanno ai colloqui di lavoro alle donne viene sempre chiesto se hanno intenzione di sposarsi, di avere figli. E quindi ho voluto un attimino tracciare un attimo un'idea di quello che sta succedendo in Europa. E come l'hai realizzato? Chi hai intervistato? Ho intervistato due europarlamentari, un europarlamentare parlamentare italiana e una olandese. Le conclusioni che hai tirato, cioè siamo effettivamente allineati oppure c'è ancora molta strada da fare con il resto dell'Europa? C'è veramente ancora molta strada da fare. L'Italia è veramente indietro rispetto agli altri paesi, soprattutto quelli scandinavi, dove le donne hanno la possibilità di lavorare anche se sono madri e se sono mogli. Come è nata l'idea di partecipare a questi awards? Ho ricevuto una comunicazione da una mia amica che mi ha detto: questo è per te, quindi ho deciso di partecipare. Io sto studiando giornalismo in Germania, niente, è una passione per la radio che è nata pochi mesi fa in realtà, quindi ho deciso di mettermi alla prova. Un'ultima domanda a entrambe, partendo da Jessica: il vostro futuro lo vedete in Europa, in Italia? Io sicuramente in Italia, sono campanilista, non vorrei lasciare il mio paese, ma vorrei che il mio paese potesse in un futuro dare più possibilità ai giovani, prendendo spunto proprio dall'Europa, e quindi poter rimanere nel mio paese e lavorare lì. Elena? In Europa, sicuramente. Dove? Adesso come adesso sto studiando in Germania, l'anno scorso ho studiato in Danimarca, quindi sono molto flessibile, vedremo. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.